Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Ed eccoci al primo appuntamento di questa settimana insieme all'Associazione Difesa Consumatori di Mestre. Ben trovato a Gianluca Codognato. Ciao Mirko, un saluto ai radioascoltatori. Allora, chi ha visto e ha sentito la nostra rassegna stampa di questa mattina già conosce, almeno per sommi capi, la vicenda. Leggo quello che titolava stamattina proprio il Gazzettino di Treviso, perché il fatto è accaduto a Mogliano. Paga la multa al tabaccaio, il tabaccaio sbaglia il destinatario e l'anziana la deve ripagare. Cos'è successo, Gianluca? Sì, è successo quello che forse può succedere solo in Italia, ma insomma non so come ci si comporti all'estero da questo punto di vista. In ogni caso la vicenda è molto semplice. La donna ancora a settembre, la pensionata ancora a settembre assieme al figlio, stava percorrendo il terraglio per andare a Mogliano. È stata bloccata da una pattuglia dei vigili urbani che avevano quel macchinario che identifica appunto se manca qualcosa all'auto. In questo caso mancava la revisione, si erano dimenticati di farla, al che chiaramente la polizia locale di Mogliano, perché erano a Mogliano in quel momento, li ha multati con una multa che corrispondeva a circa 160 euro, e la pensionata assieme al figlio ha portato immediatamente l'auto a fare la revisione. Con altri mezzi ha pagato il giorno stesso la multa, quindi scontata col 30% di sconto, ha pagato circa, certo, 120 euro, quindi stiamo parlando del giorno stesso, e basta, la situazione sembrava chiusa lì. Dove è andata a fare il pagamento? Il pagamento l'ha fatto sempre sul terraglio, in questo caso però a Mestre, quindi diciamo prima del confine con Mogliano. Qua stiamo parlando di zone molto confinanti. Ma utilizzando quale sistema? È andata da un tabaccaio appunto sul terraglio, quindi praticamente ha utilizzato il sistema telematico e ha fornito la multa al tabaccaio, il quale ha inserito i dati all'interno del terminale e ha praticamente stampato la ricevuta con la quale si testimoniava il pagamento della multa relativa, pagata appunto il giorno stesso, quindi anche con il 30% di sconto. Tutto a posto, ma in realtà non era così. Non era così, perché di recente, qualche settimana fa, la pensionata ha ricevuto una comunicazione da parte della polizia locale di Mogliano, la quale le comunicava che non era giunto ancora il pagamento di quella multa, e quindi a questo punto la multa dai 160 iniziali, poi in realtà erano stati pagati 118 con lo sconto, era passata a 360 euro, quindi praticamente triplicata. Al che chiaramente la donna assieme al figlio e la figlia sono andati a parlare alla polizia locale, ma di Mogliano. Qua non hanno assolutamente voluto sentire ragioni, perché hanno detto che il tabaccaio ha sbagliato appunto la località in cui inviare la multa, nel senso che dove c'era scritto comune, ricordiamo che Mogliano fa comune a sé stante, però è in provincia di Treviso, e appunto al tabaccaio ha scritto Treviso invece che Mogliano, e da qua è nato tutto il problema. Un problema che chiaramente la pensionata, di cui chiaramente la pensionata non poteva accorgersi. Invece alla polizia locale di Mogliano le hanno detto che era compito suo verificare poi che il tabaccaio avesse compilato giusta la ricevuta, e che quindi questa multa deve essere pagata e senza altro aggiungere. La persona si è rivolta a noi, si è rivolta all'Adico, e adesso interveniamo immediatamente con il nostro ufficio legale, invieremo una PEC alla polizia locale nella quale allegheremo anche tutto ciò che è necessario allegare, tipo la ricevuta del pagamento, perché se una cosa è stata pagata non capiamo perché bisogna andarla a ripagare, tra parentesi, una cifra tre volte superiore. E se non riusciremo in questa maniera bonaria, ci toccherà chiaramente ricorrere al giudice di pace, sicuramente. Allora, ci sono un po' di attori in questa vicenda. Il tabaccaio certamente ha sbagliato, la signora non ha verificato, la polizia locale di Mogliano non ha visto arrivare i soldi, effettivamente lì non sono arrivati, e ne chiede ulteriormente ragione. Ma la provincia di Treviso, che si è vista arrivare 118 euro di una multa che non lo aspettava, che cosa, ecco, cosa potrebbe chiedere alla provincia di Treviso? Di stornare quei soldi, di restituirli, cioè come pensate di procedere? Noi, pur chiedendoci come stai facendo te in questo momento, cioè se l'ha chiesto sicuramente il nostro presidente, dove siano finiti questi soldi, perché da qualche parte sono andati, e sono andati sicuramente alla polizia locale. La cosa che ci chiediamo, ma siamo convinti che sia una cosa fattibile nel 2017, sia che gli uffici dialoghino tra loro, risalgano a quella multa che appunto ha sicuramente un codice identificativo e facciano un passaggio di soldi in modo che appunto si vada a coprire questa mancanza del pagamento della multa per la polizia locale di Mogliano. Noi crediamo, ripeto, che nel 2017 un dialogo tra gli uffici di Mogliano e gli uffici di Treviso, che sono distanti qualche chilometro, insomma, non sia impossibile. Ci affidiamo un po', ecco, al buon senso anche della polizia locale, fermo restando che noi come ufficio legale dobbiamo intervenire immediatamente, perché non ci sembra assolutamente giusto che si vadano a chiedere 360 euro a una persona che comunque aveva regolarmente pagato la propria multa. Che cosa potrebbe avere come conseguenza il tabaccaio? Certo, è magari un errore veniale, come si magari si sbaglia a digitare una cifra, però di fatto l'errore materiale è il suo. Allo stato attuale si prevede appunto che, questo appunto approfittiamo di dirlo anche attraverso la radio, si prevede che teoricamente la persona alla quale viene pagata la multa tramite terminale poi vada a controllare tutti i dati sullo stesso, quindi la responsabilità teoricamente è sua. In questo caso anche con un controllo comunque probabilmente nessuno si sarebbe accorto di nulla, perché qua c'è stata proprio un qui pro quo relativo al fatto che Mogliano è in provincia di Treviso e dove c'era scritto comune si è pensato di mettere invece la provincia. Questi sono errori oggettivamente che si possono fare, perché tante persone poi non sanno neanche se un comune se una zona, se un paese faccia comune a sé, quindi insomma per esempio Mestre non fa comune, quindi anche se qualcuno vorrebbe, permettetemi la parentesi, che facesse comune questo. Esatto, questo sicuramente se ne parlerà, anzi prossimamente, e in questo caso cambieranno le cose, però ecco, a nostro giudizio non si può pretendere che tutti gli automobilisti poi alla fine vadano a controllare e sappiano anche queste piccole, anche queste cose che insomma non sono di tutti. Ripeto, dove c'era scritto comune è stato messo Treviso, perché effettivamente Mogliano Veneto fa comune a sé, però è in provincia di Treviso. È una confusione che si può fare soprattutto se una persona è pensionata e ha una certa età. Perfetto, ma mi viene in mente un altro sistema, che è quello dei codici a barre, che viene utilizzato normalmente dalle ULS, delle aziende sanitarie, per il pagamento dei ticket. Quello è molto semplice, uno passa il codice. Non si potrebbe adottare questo sistema appunto anche sui bollettini delle multe, in modo da evitare di incorrere in errori magari veniali, chiaramente non voluti, ma che poi portano questi disagi? Io sono d'accordissimo, Mirko, secondo me dovrebbe esserci già, perché chiaramente dovrebbe bastare un codice identificativo per inviare la multa all'ente che deve veramente prenderla. Non si può pretendere che io dia un vantaggio a una persona, nel senso che chiaramente è un vantaggio quello di poter andare a pagare la multa con più facilità da un tabaccaio, però non si può pretendere che l'automobilista stia a controllare tutto, e soprattutto di fronte a un errore non si può pretendere di affibbiare delle multe di questo tipo, perché una persona che ha già pagato e che lo dimostra perché ha la ricevuta del pagamento, a una persona così non si può andare a chiedere certamente di pagare un'altra volta la somma triplicata. Speriamo che la vicenda si risolva anche con il vostro intervento. AssociazioneDifesaConsumatori.it per altri dettagli, magari speriamo di no, ma per casi come questo. Grazie Gianluca, tra qualche giorno. Grazie a te, Mirko. Diritti e rovesci, in collaborazione con ADICO, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma vai su bluradioveneto.it.